Saturno. Saturno è il pianeta leggero con gli anelli intorno. Gli anelli sono formati da tante rocce, grandi e piccoli. Abbiamo pesato varie cose con gli oggetti con la bilancia. I tappi di sughero, anche se sono tanti, sono più leggeri di un soldino. E così lenti possono essere leggeri. Le cose piccole possono essere più pesanti.